Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come sapete, da luglio dell'anno scorso le aziende che producono pannelli solari devono garantirne lo smaltimento a fine vita. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa in occasione dell'abilitazione del primo consorzio in Italia, appunto, allo smaltimento di questo rifiuto. Abilitazione che avviene da parte del GSE, gestore dei servizi energetici. Stasera torniamo su questo tema per capire un po' meglio come avviene, soprattutto come avverrà questa operazione e anche che cosa si ricaverà dal disassemblaggio dei pannelli fotovoltaici. Operazione che comporta anzitutto la necessità di tracciare, come vedremo a breve, le sorti di ogni singolo pannello per tutta la sua vita. A questo proposito, Chiara Albicocco ha intervistato Michele Zilla, che è direttore di Cobat, uno dei consorzi identificati appunto dal GSE abilitati a smaltire i pannelli fotovoltaici in futuro. Sentiamo. Il GSE, gestore dei servizi energetici, è quello che fisicamente paga al cittadino il contributo energetico perché ha utilizzato il quarto e il quinto conto energia. Per poter pagare quel contributo, il GSE deve avere la certezza matematica che quei pannelli siano allocati nel posto in cui il cittadino, l'impresa, chiede di poter avere il contributo, per esempio casa mia. Il GSE come fa a vedere questa cosa? I sistemi che sono stati selezionati, tra questi ovviamente il Cobat, devono dimostrare la tracciabilità di questi pannelli, per evitare truffe e via dicendo. Certo, deve garantire che rimane lì, nella propria abitazione, nella propria impresa. Esatto. Secondo argomento, la tracciabilità tenga conto che il quinto conto energia dura 10-12 anni a seconda di quanto è stato individuato come finanziamento. Beh, noi per questo periodo siamo dei garanti per il GSE sulla corretta alienazione e smaltimento dei pannelli che dovessero o rompersi o terminare il loro ciclo di vita. Ecco, quindi okay. Quando ipotizziamo di essere fra 20 anni, così ci catapultiamo in là nel tempo, fra 20 anni, se quel pannello in quel sito subisce una rottura per motivi, non so, per esempio proprio accidentali, no? Una grandinata, sì, si rompe un modulo. Bene, noi avendo tracciato quello, noi comunichiamo al GSE che quel modulo viene tolto, quindi viene cancellato dalla banca dati e subisce tutto un percorso di smaltimento, diciamo, di recupero più che smaltimento, con una serie di vantaggi che sono quelli, come lei può immaginare, del recupero delle materie seconde. Perfetto. Che cosa c'è nel pannello? Eccoci. Ecco, ovviamente tutto il materiale elettrico annesso e connesso, gli inverter, fili, rame, tutto quello che lei può immaginare dal punto di vista proprio estetico. Prendiamo il pannello tipo, che è fatto di silice, quindi c'è la struttura in alluminio che è proprio una cornice, che è molto interessante, molto pesante, quindi ha un recupero molto positivo. Tutto il vetro, la prima parte del vetro è silice, quindi può essere tranquillamente riutilizzata facendo il percorso classico delle vetrerie, sempre con dei pretrattamenti, mi raccomando, perché non è un vetro come la bottiglia della birra. Poi c'è un altro vetro sottostante che ha dell'ossido di piombo, quindi anche questo, una volta determinata una linea di trattamento, finisce nelle fonderie che noi già abbiamo per quanto riguarda il piombo. E poi ha tutta una serie di prodotti di micrometalli, argento, stagno e altre cose che sono allocate in quei microcircuiti che lei vede quando fisicamente ha in mano un pannello, quei quadratini che lei vede, che si vedono proprio a livello estetico. Ecco, tutto un lavoro che rende molto ridotta la quantità da portare in discarica. Infatti, quant'è più o meno? Perché da come racconta, quasi tutto si può recuperare. Oggi, in questo momento, la quantità che può essere recuperata arriva al 45-50%, perché non tutto il silice e il vetro è fisicamente oggi recuperabile. Ma io mi sono proiettato nel 2023. Nel 2023 tutto quello che oggi può sembrare non tanto recuperabile, non perché tecnicamente non lo possa essere, ma economicamente non lo è, può anche darsi, come noi stiamo preparando una serie di studi che sono ormai partiti col CNR e con l'Enea, per verificare anche nel lungo periodo, quindi fra 20 anni, se anche quella questione oggi economicamente non valida ma tecnicamente funzionale lo può diventare anche economicamente valida nel futuro. Cioè, noi riteniamo che il 90% del pannello possa essere completamente recuperato. Questi materiali possono essere riutilizzati per la produzione nuova, diciamo, di pannelli nuovi, oppure poi vengono smistati per i diversi usi che se ne fanno dai vari centri di smistamento, Io quelli per i metalli, per il vetro? Preferisco pensare che noi immettiamo nel mercato dei nuovi prodotti. L'utilizzo diretto di questi prodotti in altri pannelli, io oggi non glielo so dire, perché fra 25 anni può anche darsi che i pannelli siano fatti in plastica e non più in vetro. Certo, ad ora no. Non glielo so dire, ma è inevitabile che invece di buttare via del materiale in discarica, per dire in modo balordo, cioè l'allontanamento stupido di un prodotto, è fondamentale che questo prodotto venga smembrato, analizzato e recuperato al 100%. Come avevamo accennato quando ne avevamo parlato l'ultima volta, c'è però un grosso problema. La stragrande maggioranza dei pannelli fotovoltaici installati finora non potranno essere smaltiti per questa via. E formalmente allo stato attuale non c'è un meccanismo in Italia che consenta il ritiro a fine vita e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici. Ma c'è una direttiva europea dal cui recepimento potrebbe venire una soluzione. I pannelli oggetto di questo lavoro sono solo quelli per i quali qualcuno di noi, il cittadino o un'azienda, richiede un contributo al GSE. Quindi non è per tutti i pannelli esistenti nel mercato italiano. Lei sa che noi parliamo del quarto e quinto conto energia dal punto di vista del GSE, mentre fino a, per il primo, secondo e terzo conto energia non sono stati previsti questi requisiti. Esatto, quindi, possiamo identificarlo intorno a luglio dell'anno scorso? Sì, come esatto. Dicevamo? Ecco. Parliamo di circa 60 milioni di pannelli già immessi al consumo. Per questi pannelli non vi è questa copertura, diciamo non vi è questa copertura giuridica prevista oggi dal GSE. Ci sarà l'anno prossimo, quando il Parlamento italiano rettificherà la direttiva europea che ha modificato una norma sui rifiuti elettrici e elettronici, questa norma comprenderà anche quei pannelli fotovoltaici. Quindi noi diciamo che a livello strategico e a divenire ci andremo a occupare di tutti i pannelli. Beh certo, anche per recepire questa direttiva, che è davvero poca cosa rispetto alle sfide attuali, sarebbe utile avere un governo. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.